Atlanta, ma non so che cosa c'è nella mia pelle bianca, che a 14 anni mi ha fatto sentire come nato a Hollis, Queens, ma sotto falso nome. Ho il passaporto italiano e un cuore mediterraneo, working class hero, con un amore spontaneo per la botte piena e per la moglie ubriaca. La base aerospaziale nel centro di Aracataca, Gabo Marquez, Valentino Rossi ed Happy Days, Diego Velasquez, Saturday Night Fever, Walk This Way. E quando senti il richiamo della foresta, è la mia musica, è la tua festa. Come posso io non celebrarti vita? Oh vita, oh vita. Skip, skip, dive, socializza, ritmo mozzarella, pomodoro e con una pizza. Supercalifragilistico e spiralidoso, uomo paleolitico d'impatto mostruoso. Non sono laureato ma posso insegnare ad Harvard, improvviso sul tempo meglio che al Village Vanguard. Ormai sono uno standard, un grande classico, quick stop, rock and roll, mister fantastico. Se esiste un dio, forse sì, forse no, boh. Ma ascolto le storie, disposto a crederci un po', che siamo figli di qualcuno e resta tutto da fare. Non ho radici ma piedi per camminare. Come posso io non celebrarti vita? Oh vita, oh vita. Come posso io non celebrarti vita? Oh vita, oh vita. Ho il flow di un jazzista e il mood di un barista, le ossa rotte riparate a forza di stare in pista. Con la pistola d'acqua rapino la banca, la mossa del cavallo a L che la via mi spalanca. Verso lo scacco R, verso la rivoluzione, un cantautore con la lingua come una percussione, che batte dove vuole il dente, dove passa la gente. Alcatraz, Razzmatazz, precipitevolissimevolmente. Coraggio, la fantasia in viaggio, e tocco il centro esatto del cuore selvaggio. La voce dell'Orinoco, la poesia al gioco. Senti un calore, baby, è il sacro fuoco. Come posso io non celebrarti vita? Oh vita, oh vita. Come posso io non celebrarti vita? Oh vita, oh vita. Boom, boom, boom, boom, ritmo della vita, la barzelletta di una natura domesticata. Ah beh, sì beh, vacci a credere te, qui è tutto sempre relativo, come piace a me. Non sono qui per il gusto, per la ricompensa, ma per tuffarmi da uno scoglio dentro all'esistenza. Sono un migrante, sono un cantante, un panettiere a Damasco, una stella distante, un pianoforte scordato dentro una sagrestia. L'avanguardia di guardia davanti alla retrovia, nel tempo della paura aspetto la fioritura. E se una femmina si chiamerà Futura, futura. Come posso io non celebrarti vita? Oh vita, oh vita. Come posso io non celebrarti vita? Oh vita, oh vita, oh vita.